già ci apparteniamo, poi dopo che succede vorrei scavarti l'anima, raccontarti che si vede. Non voglio dalla vita una storia qualunque, ho fatto un paio di progetti, chissà se bastano. Comunque ti chiamerò dal traffico in coda in tangenziale per ingannare il tempo, come se si potesse fare. Questa città è più grande per chi non sa sognare, e a mezzanotte il bar in piazza sembra astronave. È questo che vuoi, Anna? È questo che vuoi, Anna? Se già ci apparteniamo, se già ti porto dentro, che differenza fa un appartamento in centro? Ti ho vista consumarti fino a diventare polvere. Lo so che vuoi lasciarmi perché non lo sai nascondere. Prova a fidarti di me. Cosa ci manca? È questo che vuoi, questo che vuoi, è questo che vuoi, questo che vuoi, Anna. Sai quello che hai davanti, figuriamoci se amarsi non è facile a 30 anni. Dimmi tu che cosa hai preso e io che cosa posso darti. Se non sai tornare indietro, prova a cancellarmi e prova a dire ancora una parola prima di sparire. Porta via il passato perché ora potrà servire. Questo che vuoi, questo che vuoi, è questo che vuoi.